Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. 16:32, Luca Tremolada, Giampaolo Colletti, buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno. Era gennaio quando ti è venuta in mente l'idea dei WWW Workers, ne abbiamo fatto qualche puntata, è diventata questa settimana una copertina di Nova 24, Sole 24 Ore, e insomma oggi vediamo di capire cosa è successo, ma prima le news. Sei anni di Facebook e 400 milioni di utenti entro la fine della settimana. Con questa previsione, il fondatore del popolare social network, Mark Zuckerberg, celebra il compleanno sul blog aziendale e annuncia qualche novità. La più importante? Secondo indiscrezioni, potrebbe essere l'apertura di un servizio di posta elettronica. Arriva oggi nei negozi Dante's Inferno, videogame per PlayStation 3, PSP e Xbox 360. Impersoniamo Dante Alighieri, che però è un crociato muscoloso, reduce dalla terza crociata. Finisce nell'inferno per salvare l'amata Beatrice, rapita da Lucifero. Si farà strada combattendo. I gironi sono ispirati alla Divina Commedia, il resto è fantasia sbrigliata. Gli adolescenti si sarebbero già rotti del blog. Secondo uno studio condotto da Pev Internet e American Life, il numero di giovani che postano sui blog si è dimezzato negli ultimi 3 anni a favore di siti di social network come Facebook. Solo il 14% dei teenager che usano internet dice di tenere un blog, rispetto al picco del 28% registrato nel 2006, e solo l'8% usa Twitter. La fantasia sbrigliata non esiste. O sbaglio? Ma magari per il popolo dei WW Workers. Ma è una cosa. Allora, innanzitutto ricordiamo insomma chi sono, che come ti è venuta questa idea, perché? Ma una generazione trasversale di lavoratori italiani, dal Made in Italy al Live in Italy, cioè sono persone che lasciano il posto fisso, a volte per necessità, a volte per piacere, e si autoimprenditorializzano per in rete, quindi utilizzando le nuove tecnologie. Ecco, tu cosa hai capito dopo più di un mese che insomma hai lanciato? Tra l'altro, come è andata? Tu hai aperto un sito. Ricordiamo il link. Il sito è www.workers.it con le tre W tipiche della rete. E beh, è andata che finora abbiamo oltre 100 storie, 100 schede segnalate su WW Workers. E beh, diciamo che molti di questi WW Workers italiani diventano tali molto spesso per necessità, a causa di un licenziamento, di una situazione difficile sul posto di lavoro. Poi invece c'è un bel gruppo, quasi la metà, che invece trasforma la propria passione in professione utilizzando le nuove tecnologie. E attenzione, con il supporto essenziale di famiglia e amici, alleati fedeli. Ecco. Ecco, qual è il passo che insomma andiamo? Anzi, no, prima di andare avanti e capire insomma quello che succederà subito dopo, presentiamo gli ospiti in studio. Anzi, partiamo da Giulio Menossi. Anzi, no, perché non c'entra. Anzi, però partiamo da Giulio Menossi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E anzi, buon pomeriggio, e sentiamo la scheda. L'approdo di Giulio Menossi su internet ha il sapore di una rivincita e di una seconda giovinezza fatta di commesse, soprattutto estere, arrivate dopo anni di lavoro. La stima e l'attenzione di un pubblico globale che si è fermato ad ammirare online le sue opere. Giulio è un artista 55enne di Udine, da una vita maestro mosaicista, da 10 anni WW Worker. Sono stato tra i primi ad aderire alla community americana sui mosaici. mosaicandceramics.ning.com, che oggi conta quasi 1000 iscritti, precisa con orgoglio Giulio. Su internet ha scoperto un felice approdo. Online rispondo a domande sulla tecnica musiva, organizzo corsi, partecipo a mostre. Lavoro precario per una nobile arte. Il mosaico non è necessario come può esserlo il pane, e quindi tutto è sempre in divenire, precisa Giulio. Per questo lavoro il talento deve essere innato, ma la ricerca è un dovere costante. Allora, Giulio, che è qui davanti a me, ha il physique du rôle dell'artista, cioè nel senso la barbetta, il capello un po' leggermente lungo, però insomma mi sembra di capire che Giampaolo, la seconda giovinezza è andata su internet. Beh, tra l'altro una seconda giovinezza globale, perché da internet, dall'Italia, da Udine, Giulio ce lo racconterà, è approdato anche oltreoceano, anche con riconoscimenti importanti. Sì, è tutto nato quasi per caso. In quanto questa creatrice americana, la signora Pam Givens, di questo sito appunto dedicato al mosaico, un bel giorno mi ha scritto, io ho risposto senza sapere a cosa sarebbe. Ma le ha scritto via mail, ha scritto una mail, ecco. Naturalmente, sì. E da lì è nato tutto. Sui oltre 1000 ormai aderenti al sito, io sono il numero 17, il primo italiano. Appunto, tutto è nato quasi per gioco. Oggi invece diciamo faccio da giudice unico a rassegne internazionali di mosaico. Ecco, ma che idea si è fatto di questa cosa che sta succedendo in Italia, che giustamente Colletti sta testimoniando e sta raccontando, cioè di una generazione che non è una generazione che ha un'età precisa, cioè sono persone che insomma riescono un po' per la crisi economica, un po' per n motivi, insomma a un certo punto salgono su internet e succedono delle cose, si appoggiano la loro professionalità sulla rete e accade qualcosa. Sì, io ho deciso che forse era il caso di tentare qualcosa di particolare per vedere se le capacità, la maestria veniva riconosciuta al di fuori della mia terra, per vedere appunto che effetto poteva fare, e quindi i risultati ci sono stati. Quello che ci dice Giulio è importante: le soddisfazioni dei WWWorkers arrivano grazie alla rete da varie parti del mondo, quasi Nemo profeta in patria. Ecco, dalla rete si ha il riconoscimento di alcune professionalità che magari nel territorio specifico non sono considerate tali. Ecco, ma tu che idea ti sei fatto, tra l'altro? Cioè, hai raccontato una storia che è una storia italiana, quella dei, cioè nel senso che ha dei contorni, ha delle caratteristiche, ha delle peculiarità nostre. Io mi sono fatto questa idea qui, che in realtà chi approda su queste vicende online non sono soltanto gli smanettoni della rete o lavori legati appunto alle nuove tecnologie, anche una persona, un maestro d'arte come uno che si occupa di tecniche musive, approda online e può avere riconoscimenti. Sì, le tecniche musine le spieghiamo? Due parole, forse una delle tecniche più antiche del mondo. Il mosaico veniva adoperato dai romani, dai greci e via per i secoli. E diciamo gli aspetti tecnici sono ancora quelli che venivano adoperati 2000 anni quindi fa. Quindi la tecnica musiva è di fatto che cosa quella vuol dire? Tagliare con un martellino ad hoc le tesserine, che possono essere di vetro o di marmo, e da questa comporre poi il mosaico. E non soltanto questo, ma fare arte e sopravviverci, perché grazie alla rete poi Giulio riesce anche a esportare le sue opere oltre oceano e forse avere un mercato che prima, mi corregga Giulio, non aveva. Sì, è vero. Resta il fatto che comunque viene premiato, perlomeno questo è il mio approccio con internet, viene premiata soprattutto all'estero la capacità, cioè se uno ha dei valori, ha una maestria da proporre, io, la mia esperienza naturalmente, ma ho visto che c'è un riscontro. Quindi, ecco, di tutt'altro genere la storia invece di Mara Cirillo. Lei non rompe sassolini, non fa mosaici, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma fa un altro lavoro, tra l'altro un lavoro che è diventato abbastanza di moda. Molto di moda, diciamo che chiunque incontri mi dice: ah, ma anch'io vorrei, o ho un'amica che vorrebbe. Non diciamo nulla, sentiamo nella scheda cosa fa Mara Cirillo. Una WWWorkers con i fiori d'arancio e con le idee molto chiare. Per una wedding planner, ovvero una figura professionale organizzatrice di matrimoni, soddisfare il cliente in ogni sua esigenza è essenziale. Anche perché il giorno del matrimonio è il più importante della propria vita, precisa Mara Cirillo, trentenne comasca e già mamma. Dopo 2 anni nelle pubbliche relazioni, Mara ha deciso di lasciare il posto fisso e di diventare wedding planner online. Anche per stare vicino alla sua figliola. Rigorosamente connessa, Mara sul sito www.whitenotes.it raccoglie le prenotazioni, offre tipologie di location e di servizio catering, interagisce con i clienti. Mi rivolgo direttamente ai novelli sposi per rendere unico e indimenticabile il giorno del loro matrimonio. Ma il lavoro è solo in parte virtuale. Per il resto, la vicinanza ai clienti sposi deve essere soprattutto fisica. Praticamente è una questione di psicologia, cioè tu ti trovi di fronte una sposa arrabbiata, mediamente arrabbiata, e devi cercare di contenere lei, contenere il marito. Non so se hai fatto bene in questo caso, no? Ma diciamo che tendenzialmente gli sposi sono in un momento felice della loro vita, per cui insomma è un relazionarsi positivo, ecco. Ah, sì? Poi la difficoltà sono... Non senti, non c'è il nervosismo della mamma, della sposa, sposa, del papà, dello sposo, tutto deve essere perfetto, tutto deve essere a posto. Ma quello è un confronto regola costante con il tutto deve essere, le aspettative, cioè il corrispondere sempre alle aspettative. Quindi i primi anni che lavoravo, la notte prima del matrimonio non dormivo, voglio dire, poi mi svegliavo nel mezzo. Sposata io mi sposo 30 volte all'anno, voglio dire, mi svegliavo nel mezzo della notte, oddio, ho fatto, sì l'ho fatto, e mi giravo. Adesso ho recuperato il sonno, riesco a dormire, sono che ho perso con le ultime due nascite delle mie bambine, però vabbè, recupereremo anche questo sonno. Per lavoro diciamo che adesso riesco a dormire quantomeno. Ecco Giampaolo, ma c'è una differenza uomo e donna? Questo è un mestiere tra l'altro che è unisex, nel senso che non è che c'è, però dalle storie che hai raccolto noti delle differenze? Ci sono? Io ho notato questa caratteristica, che tra le storie di servizio al cliente molte sono le storie al femminile, e nelle storie che sono arrivate su www.workers.it moltissime sono quelle che arrivano, sono le storie in rosa di quelle donne che hanno scelto di lasciare il posto fisso e si sono messe in proprio. Sì, ma ricordiamo che abbiamo avuto il club delle mamme, poi abbiamo, hai raccontato il dog sitter, hai raccontato la ragazza che lavorava nel mondo della borsa e che ha fatto un salto carpiato perché lavora sulle unghie, per cui fa proprio tutt'altro genere. Nel tuo caso è un salto carpiato? No, beh. No, in realtà comunque sì, io partivo dalle pubbliche relazioni, anche se la mia idea era poi di muovermi nel marketing aziendale piuttosto che nella pubblicità, anche perché quando ho iniziato io la wedding planner non esisteva in Italia, per cui non avrei potuto voler fare questo. Poi la vita un po' mi ha portato ad avvicinarmi al mondo del matrimonio, e dopo un'esperienza di un anno lavorando per delle persone, quindi ho acquisito delle competenze, ho deciso di provare a creare qualcosa di mio, diciamo. Sul fatto del discorso delle donne che approdano a internet, e anche perché comunque c'è la ricerca secondo me oggi di una realizzazione a 360 gradi, quindi il lavoro in rete forse ti permette di unire quello che è la tua vita privata con un discorso poi di realizzazione professionale, quindi di realizzarti un po' a 360 gradi. Ecco. Molte delle schede arrivate su WWWorkers raccontavano di questo work-life balance, che è un termine dell'aziendalese spinto, che però parla di un equilibrio tra vita privata e vita professionale. Molte donne WWWorkers riescono in questo, a fare del proprio lavoro in rete una sintesi con la propria vita privata. Bello. E anche a gestire bene la community, perché la community e la gestione online delle community è una prerogativa femminile. Nova Lab 24. 16:46, dimmi Giampaolo. Beh, stavamo raccontando la storia delle world worker al femminile, quindi quelle persone che lasciano il posto fisso del gentil sesso e riescono a conciliare vita professionale. Che era da anni che non sentivo del gentil sesso. Mamma mia, cioè il gentil sesso. Vabbè, vai, dopo world worker ti sto stupendo con queste gentil parole. Sesso, esatto. Proprio, vai. Però c'è da parte delle donne una gestione attenta della community online, e grazie a questo lavoro in rete in realtà c'è una gestione anche particolare della propria vita privata e vita professionale. Molte riescono da casa a lavorare ma al tempo stesso a pensare ai pargoli. Sì, con una certa difficoltà, però diciamo che con sveglie molto presto al mattino, e quindi un buon lavoro in internet, soprattutto nella relazione con le mail e tutto quanto, prima che le bambine si sveglino. Poi approfitti dei pisolini delle bambine, poi quando si addormentano, poi passa la nonna, e quindi insomma è ovvio che cambia, saltano ogni schema, cioè io non ho una quotidianità, ho una giornata che mi invento strada facendo, col telefono che suona, azzittisci la bambina mentre rispondi al telefono con fare molto professionale e cerchi di gestire un pochino il tutto, insomma, ecco. Tra l'altro, se possiamo sfatare un luogo comune, il WWWorker lavora di più di chi timbra un cartellino, perché è ben oltre le 8 ore di lavoro. Non lo sappiamo, sfatiamolo, però. Sfatiamolo questo luogo comune. Io non ne sono con. Vabbè, vediamo. Io comunque volevo sentire, se abbiamo tempo, ma sì che abbiamo tempo, anche la storia di Massimiliano Colangelo. La storia di Massimiliano Colangelo, quarantenne torinese, papà di tre figli, intreccia lavoro e famiglia, due vite in una. E la gravissima malattia del terzo figlio, Cosmo, come spartiacque. Prima Massimiliano aveva un posto fisso come macchinista teatrale e costruttore di scene in un teatro del nord Italia. Poi l'emorragia cerebrale di Cosmo, 3 anni appena compiuti, l'ha portato a richiedere un permesso di paternità, negato. Da lì la scelta obbligata di diventare WWWorker e di fare dell'arte il suo lavoro in proprio. L'idea è stata di mia moglie. In un paesino francese aveva visto una piazza allestita con giochi in legno. Mi ha proposto di trasformare gli angoli di una città per grandi a dimensione dei più piccoli. Così Massimiliano, nella sua seconda vita, diventa inventore di macchine gioco. Ecco, a me è piaciuto nella sua seconda vita. È una seconda vita in un certo senso, Colangelo. Buongiorno. Buongiorno. Sì, è una seconda vita, decisamente. Ecco. E in realtà è quello che ho sempre desiderato fare, cioè inventare e realizzare le mie idee. Ecco, diciamo che insomma il passaggio è stato un passaggio doloroso, però in questo caso. Veramente molto doloroso, sì, assolutamente. Ma è stato da solo in questa scelta, cioè come ha affrontato, anche perché immagino un doppio salto nel buio da un certo punto di vista. Sì, in realtà era una cosa che volevamo fare da un po' di anni, questa cosa di fare allestimenti ludici, portarli nelle piazze e progettare, andare avanti in questo aspetto del gioco che è poi il mio lavoro, perché sono poi scenografie e gioco. Però in questo modo è stato, insomma, dopo la emorragia di mio figlio ho semplicemente non ho lavorato per un anno e qualcosa dovevo inventarmi, più che altro per passare il tempo, fantasticare, insomma, ho avuto il tempo per dedicarmici. Questo è diventato un lavoro perché era dato subito una resa economica, ha dato dei risultati molto positivi, perché ogni volta che facciamo un allestimento il ritorno è eccezionale, sia da un punto di vista di piacere di lavoro, sia da un punto. Quindi diciamo di... che la negazione del permesso di paternità in questo caso è stato fortunoso per lei, fortunato più che fortunoso. Diciamo sì, quando uno sopravvive tutto sommato è fortunoso, insomma. Sì, è stato un... in realtà ma come hanno fatto, però scusi, come hanno fatto a dirle di no, però? Perché poi, cioè, noi ci passiamo sopra su queste cose, però insomma un bambino, c'è un problema, è così. Qual è stata la motivazione per cui le hanno negato questo permesso? Allora, io era un po' che lavoravo in quel teatro, in quel posto, però non a contratto a tempo indeterminato. In teatro in genere lavori a contratto di 6 mesi in 6 mesi, insomma. Era un ente lirico, quindi una struttura grossa, un ente lirico, un teatro stabile grosso. E mi stava scadendo il contratto, mi avevano detto a voce, in genere si fa, in teatro si fa a voce delle cose, che me l'avrebbero rinnovato. È successo l'ictus di mio figlio e io, visto che mi scadeva il contratto, in realtà avevo un lavoro abbastanza di responsabilità, o comunque avevo appena fatto una scenografia in cui ero stato molto presente, quindi il fatto di non essere presente lo sentivo un po' gli ho detto: ragazzi, io qui però ho bisogno del contratto, ma devo stare a casa. E allora mi hanno detto: vabbè, allora non ti rinnovo il contratto. Ah, così, netto, allora, preciso. Poi è intervenuto il sindacalista, insomma, alla fine il direttore mi fa: ma guarda, ti rinnovo il contratto perché è illegale, no? Dice, l'INPS cioè, faccio un contratto che poi tu non puoi lavorare. Te lo rinnovo e tu mi prometti che prendi la maternità. Se prendi la maternità non ti riassumerò poi successivamente. Perfetto. Proprio lucido, metallico. Giampaolo, ma ci sono diverse storie che ci sono arrivate, che arrivano da queste situazioni di ricatto, quasi anche psicologico, se vogliamo, anche del posto di lavoro, e quindi si approda a questa scelta anche in maniera dolorosa. Non è mai una scelta nel vuoto, molti worker diventano tali anche dopo averci ragionato con famiglia e amici, quindi dopo essersi assicurati anche un paracadute. Non sono comunque profili di persone che si buttano nel vuoto. Cioè, ecco, noi abbiamo raccontato queste storie, ricordiamolo anche perché poi far sentire le voci rende più concrete, che di solito questo tipo di storie vanno sul giornale, magari nei settimanali diventano una copertina, diventano anche 2 pagine, poi però vengono un po' dimenticate. Il fatto che di raccontare, di far sentire, insomma, dietro una fotografia di solito c'è una voce, c'è una storia, ci sono delle scelte più o meno dolorose, credo che sia importante. Però voglio capire da te a questo punto che cosa farai di queste storie, visto che le hai raccolte. Noi continuiamo a monitorare il fenomeno dei woo-woo workers, cerchiamo di capire anche eventuali spaccati. Ci siamo resi conto che ci sono molti che abbandonano il posto di lavoro per necessità, altri per piacere, e poi c'è una fetta, come abbiamo raccontato con il nostro mosaicista Giulio Menossi, che per me, grazie a questa professione, diventano woo-woo workers globali. Ecco, quindi questo ruolo e questo aspetto di lavoratori oltreoceano. Ecco, ci stanno sfumando, però magari... guardiamo che cosa succede all'estero. Ma diamo un'idea. Un occhio all'estero sul fenomeno. Diamo un occhio all'estero. Io ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio Giampaolo. Ci sentiamo lunedì.